Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti alla puntata numero 12 di A Tavola con Fabiola. Questa è Radio Big World e io sono Fabiola. La ricetta di oggi è torta giamaica. Ingredienti per 6 persone: 400 g di pan di Spagna, 500 g di ananas sciroppato, 300 g di zucchero semolato, mezzo litro di panna montata, 3 tuorli d'uovo, un uovo intero, una busta di vaniglina, 100 g di mandorle tostate, 3 cucchiai di curaçao, 3 cucchiai di zucchero a velo. Preparazione: togliete l'ananas dallo sciroppo e unite un cucchiaio di curaçao. Tagliate l'ananas a dadini e mettetelo in una terrina. Spolverizzate con 50 g di zucchero. Aggiungete il liquore rimasto e lasciate macerare per 30 minuti. Tagliate a fette il pan di Spagna e mettetene la metà nel fondo dello stampo per semifreddi e inzuppate con lo sciroppo di ananas. Versate in una terrina le uova, il resto dello zucchero e mescolate con la frusta sino ad ottenere un composto gonfio e quasi bianco. Unite la panna montata, la vanillina, il restante ananas e un po' di sciroppo di ananas. Versate il composto nello stampo, livellatelo e copritelo con le fette di pan di Spagna rimasto. Pennellatelo con lo sciroppo, copritelo con un foglio di alluminio e chiudete con l'apposito coperchio. Mettete nel freezer per circa 5 ore. Tritate adesso le mandorle. Al momento di servire, capovolgete lo stampo su un piatto freddo e cospargete con le mandorle tritate. Spolverate con lo zucchero a velo, usando un setaccio. Buon appetito! Questa era la puntata numero 12 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e vi do appuntamento alla prossima con Radio Big World.